America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Meeting today between President-elect Donald Trump and President Obama. Newscast, beh, l'incontro c'è stato, Barack Obama e Donald Trump si sono visti nell'ufficio ovale. Beh, devo dire, non credo che finiremo di usare presto il termine storico in questo periodo post elezione. Dunque storico, perché davvero storico è stato l'incontro ieri alla Casa Bianca fra Barack Obama e Donald Trump, due personaggi agli antipodi dello spettro politico, sociale e demografico del paese. Sono due avversari dichiarati che si sono dati una stretta di mano ripromettendosi di lavorare insieme. È vero, il viso di Obama era un po' lungo, sappiamo che i due non vanno d'accordo, però la foto di questi due avversari nell'ufficio ovale, il video civilissimo in cui si vedono chiacchierare amabilmente è importante, primo per sanare le fratture che ci sono in America, ma anche per rassicurare il mondo, perché devo dire la transizione procede nei migliori dei modi e la trasformazione, perché di questo stiamo parlando, di Donald Trump, la trasformazione di Donald Trump, uno straordinario attore, fino a una settimana fa era aggressivo, batteva su certe retoriche che insomma facevano alzare il sopracciglio, adesso improvvisamente è pronto a dialogare con tutti, soprattutto con Barack Obama. Sentiamo. Mr. President, it was a great honor being with you and I look forward to being with you many, many more times in the future. Thank you, sir. Trump che dice: non avevo mai incontrato il presidente Obama, è un'ottima persona, ho grande rispetto per lui e l'incontro è durato un'ora e mezzo e per quel che mi riguarda poteva essere ancora molto più lungo, spero che ci saranno altri incontri presto e spero di potergli chiedere consiglio. Ecco, insomma, un Trump di questo genere ancora non lo avevamo sentito. E sentiamo Obama. We want to do everything we can to help you succeed, because if you succeed, then the country succeeds. Obama ha teso la mano, di nuovo, dice: ho avuto una straordinaria conversazione con il presidente eletto Donald Trump, abbiamo parlato di questioni organizzative, di questioni di politica interna, di questioni di politica estera, e ripete, e poi il presidente dice: la mia priorità è di facilitare una transizione che assicura al presidente eletto il successo e sono molto incoraggiato dall'interesse che ha espresso a lavorare con la mia squadra. Alla fine i due hanno sviluppato un rapporto vero e il fatto che Donald Trump e Barack Obama siano stati insieme per 90 minuti da soli a parlare a tu per tu, beh, questa è una svolta, perché come ha detto Trump non si erano mai conosciuti e ciascuno aveva più, come dire, l'impressione caricaturale del suo avversario e da ieri invece hanno imparato a conoscere il carattere reciproco. E vorrei farvi riascoltare un paio di occasioni in cui questi due signori si attaccavano un po' per scherzo, un po' seriamente a distanza. Sentiamo. His grandmother in Kenya said he was born in Kenya and she was there and witnessed the birth. Okay? Ecco, qui Trump dice: sua nonna ha detto che è nato in Kenya e che era lì per testimoniarlo. Inoltre non ha neppure un certificato di nascita e non l'ha mai mostrato. Ecco, questo è il certificato di nascita, è stata una cosa che ha dato sempre molto fastidio, devo dire, a Barack Obama, perché Trump ha continuato a sostenere questa tesi fino a poche settimane fa, poi ha fatto marcia indietro e ha detto sì, vabbè, è nato negli Stati Uniti. Però Trump lo diceva già alcuni anni fa, quando anche Mitt Romney, durante la corsa di 4 anni fa, si dibatteva su questo fatto, se fosse nato o meno negli Stati Uniti. E dunque vi faccio ascoltare delle battute che invece ha fatto spiritose al dinner corrispondente della Casa Bianca proprio Barack Obama nei confronti di Trump. Get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? Ecco, qui avete sentito Barack Obama che prende in giro in modo, devo dire, tagliente Trump, e il presidente dice: ora che abbiamo chiarito la questione del mio certificato di nascita, Donald Trump potrà occuparsi di altre questioni piuttosto scottanti e magari anche più serie del mio certificato di nascita, per esempio: ma l'atterraggio sulla Luna c'è stato davvero o no? Quindi la teoria del complotto, e questo Obama lo diceva quando Trump ventilava molto lontanamente ambizioni politiche, magari per la corsa per diventare governatore a New York. E poi Obama ha aggiunto, dice: beh, avrà più tempo anche per riflettere sulla polemica sulle bistecche, perché nel suo programma L'Apprendista c'è stata molta tensione quando non si capiva quale dei due cuochi che cucinava questa bistecca era meglio dell'altra, e dunque lui ha preso in mano la situazione e ha detto, e lo ricorderete, qui c'è una questione di leadership, intervengo io. Dice Obama, dice, questi in effetti sono quel tipo di problemi molto seri, molto gravi, che tengono anche me sveglio la notte. Donald Trump is uniquely unqualified to be president. Ecco, Obama che dice Trump, Trump, ma non possiede né le qualità né il temperamento per essere il prossimo presidente degli Stati Uniti. La presidenza non è un gioco, non è la persona a cui vorreste affidare i codici nucleari. In un'altra occasione il presidente di fatto diceva apertamente che Trump era instabile, che poteva essere davvero pericoloso. Ecco, tutto questo è superato, questo fa parte della liturgia elettorale americana, fa parte del gioco della politica. E alla fine il paese si deve riunire. Quello che mi ha colpito è che ieri, dopo queste dichiarazioni di Trump, persino Bernie Sanders ha teso la mano a Donald Trump. Ha detto, lui dice che vuole lavorare per il rilancio dei piani infrastrutturali, che vuole rilanciare la classe media, che vuole chiuderla coi commerci, con la concorrenza sleale. Ebbene, dice Bernie, noi su queste cose lavoreremo con lui fianco a fianco, perché sono obiettivi che facevano parte della mia agenda, dell'agenda del Partito Democratico, e dunque lavoreremo. La grande domanda a questo punto è, che tipo di presidente sarà Donald Trump? Sarà un presidente bipartisan? Sarà un presidente che cercherà di restare come è stato in questa campagna, totalmente autonomo, fuori dal rango del partito, capo di un movimento e dunque pronto a formare anche magari una coalizione bipartisan per cercare di trovare degli accordi importanti? Oppure si schiererà e sarà molto duro nei confronti dei democratici, si schiererà con i repubblicani? Questa è la vera grande incognita e io credo che Donald Trump alla fine, chissà, magari potrebbe rinnegare, rischiando di avere poi la sua base che si rivolta contro di lui, perché questo è quello che potrebbe succedere, ma in nome della responsabilità che oggi credo senta molto forte sulle sue spalle, potrebbe anche voltarle quelle spalle alla sua base che l'ha eletto e mettersi a lavorare anche coi democratici. Vedremo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su americamediavato.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. E visto che qui l'America ci dà una dimostrazione di unità, corre in avanti e tutto sta succedendo molto rapidamente, io credo che poi Obama non sarà molto felice se Trump davvero dovesse abolire Obamacare, dovesse abolire l'accordo con l'Iran, dovesse abolire l'accordo sull'ambiente, che sono pietre miliari della sua amministrazione. Però adesso non è il momento di fare politica, adesso è il momento di essere insieme. Dunque, Tina Turner, Let's Stay Together. Loving you. New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!